ad alta voce. Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Decima puntata. La mattina del bar mitzvah di Enzo, Mimmo disse ad Alfonsa che intendeva studiare il russo. Presa dai preparativi della cerimonia, sua madre non si stupì particolarmente né si rallegrò. Raccolte rapidamente le informazioni, scelse per lui uno studente ebreo che si chiamava Yaakov. Nella nuova avventura Enzo non lo seguì. Le metamorfosi del corpo in quel momento gli stavano ben più a cuore. Mimmo si inorgoglì del primato. Il fratello non volle dargliela vinta. Sul cuscino, andando a letto, Mimmo trovò una sera un foglietto, una citazione. Un maestro e il suo allievo passavano per un prato dove bovi al pascolo muggivano. «Se si potesse capire ciò che dicono», esclamò lo scolaro. «Se arriverai ad afferrare fino in fondo ciò che dici tu stesso, imparerai a capire la lingua di tutti gli esseri». Il giorno dopo Mimmo si lamentò con la madre delle inflessioni yiddish dell'insegnante e delle donne in giro per la casa dove Yaakov abitava, che distraevano l'attenzione di entrambi. Con i denari destinati alle lezioni comperò tutti i libri in russo che riuscì a procurarsi, pochi romanzi e molti saggi. Tolse gli ultimi giocattoli dalla mensola sopra il capezzale e collocò i nuovi acquisti lì, separati dalla biblioteca già cospicua che condivideva con il fratello. Enzo si rimirò nello specchio più e più volte, di faccia, di profilo, di tre quarti, con l'aiuto di uno specchietto. Li calò un po' in basso, li rialzò, finalmente li assestò ben saldi sul setto nasale, concludendo placato che quegli occhiali di tartaruga, i primi della sua vita, gli conferivano davvero quell'aria adulta e saggia che i lineamenti ancora troppo infantili non gli garantivano appieno. Dal corridoio Alfonsa gli faceva fretta, le gambe a lei non avrebbero permesso accelerazioni improvvise. Il primo giorno in una scuola nuova. Sua madre aveva insistito perché lasciasse il Visconti, dove le glorie scolastiche già acquisite gli consentivano troppe immunità, per trasferirsi al liceo Mammiani, che aveva fama di severità maggiore. Quando se n'era parlato, Enzo aveva fatto il superiore, fingendo una tranquillità che era in verità vacillante. Mimmo restava al Visconti. La coppia formidabile che aveva messo in discussione studenti e docenti si sarebbe scissa. Davanti al portone della scuola spalancato sull'ignoto, solo gli occhiali nuovi valevano a fargli dare buona prova di sé, mentre Alfonsa decideva di accompagnarlo fino in classe, quasi fosse un bambino piccolo da controllare. Si sentì umiliato. Nei corridoi gli altri lo guardavano con la curiosità e lo scherno riservati ai nuovi. Piccolo poi era davvero, per la statura ormai stabile e senza speranza, per i 14 anni che lo facevano scambiare per un ginnasiale. Per salire le scale, Alfonso gli prese il braccio, appoggiandosi a lui come a un grande, ed Enzo tornò a sentire che quella che sua madre gli imponeva era una prova di stima, rendergli le cose difficili per abituarlo ad essere primo, ma non fra deboli. Sulla porta della classe Alfonso si accomiatò. Il destino era interamente nelle sue mani adesso. Di nuovo Enzo si assestò sul naso gli occhiali. Con un'attenta occhiata circolare valutò i compagni che la sorte gli assegnava. Tante facce nuove da penetrare, da indagare, da accattivarsi. Molti i maschi, le femmine pochissime. Fra queste Enzo riconobbe con gran stupore Ada, la cugina Ascarelli lasciata prima delle vacanze, scontrosa ragazzina oberata da problemi familiari seri, tutta diversa da questa adolescente dalla pelle chiara, con gli occhi grandi fin quasi a mangiarle il viso, sicura del proprio fascino nascente e dell'autorità che esercitava sulla classe. Camminando fra i banchi verso il posto assegnatogli dall'insegnante, Enzo le fece un sorriso timido. «Meno male, così mi aiuterai a fare i compiti», disse Ada quando passò. Enzo annuì piano e sedette al proprio posto. Ai fratelli e alla madre Enrico raccontò delle imprese ardimentose e della pietà. Con il padre, riserrati nello studio, sfogò l'orrore per la bestialità cui a fatica si era sottratto lui stesso, la disillusione e lo schifo per i soldati impecoriti, ammassati nei paesi distrutti, senza dignità, sfatti, in fila come cani davanti alla porta dell'unica puttana disponibile. Lello non frequentava più il casino, ora che Settimio non gliene dava più la scusa, inchiavardato com'era in una zona oscura della memoria e del vivere. Del suo male spazzato via con la sua presenza non si parlava. La stanza che lo aveva rinchiuso era ormai adibita ad altri scopi qualsiasi. Per disagio, per il rispetto di Alfonsa, per le fragilità che intuiva, non ebbe l'animo di proporre ad Enrico la complicità dell'iniziazione, che pure avrebbe ritenuto salutare. Lo spronò invece agli studi e ai viaggi e sperò che suo figlio si innamorasse presto. L'ossessione della castità trapelava da ogni ragionamento di Enrico, da ogni riflessione. Un attimo solo di disattenzione e poteva debordare. Alfonso lo percepiva e non poteva permettere che accadesse. Si preoccupò dunque che suo figlio si rimettesse bene in forze e poi garantì la sua solitudine, i suoi ritiri. Sentiva di difendere la pace di entrambi. Quando di fronte alla porta chiusa della sua stanza imponeva di fare piano, di non disturbare i suoi pensieri. Enrico, serrato fra quattro mura, a ritrovare un contegno, a scrivere, a leggere, a edificare con le parole e la carta un nuovo ordine, un argine adulto alle emozioni, alle paure, alla confusione. Enrico in fuga per l'Europa, inseguito dai fantasmi delle sue incertezze. Quando pensa di aver trovato un'unità, un nuovo problema, una nuova frattura gli si propone ogni volta, senza requie. A Carlsbad, giusto alla fine del viaggio, perfino l'identità ebraica, addormentata sotto coltri consolidate, gli si risvegliò. Però non fece fatica a tenerla a bada, anzi quasi ne rise. Rimase immune infatti dal bacillo del sionismo, benché l'averlo incontrato lì, in quell'angolo nascosto dell'Europa, lo rendesse, come ebbe poi a dire, portatore sano. L'alone di melanconia che circondava Enrico, insieme ai suoi silenzi incupiti e adulti e agli studi universitari, per i suoi fratelli era un fossato che non riuscivano a valicare. Dopo aver insidiato per anni la sua supremazia, ora Enzo e Mimmo da quella lontananza erano atterriti. Per raggiungerlo, per tornare ad essere uno per tutti, tutti per uno, Mimmo ed Enzo pensarono di avere un'unica possibilità: misurarsi anche loro con la morte. Ma la guerra era finita. L'eventualità di cadere sul campo dell'onore appariva al momento improbabile. Enzo pensò al suicidio come all'unico gesto forte capace di dare senso ad una vita. Mimmo, quando ne parlarono, non trovò assurda l'idea. Il professore d'italiano aveva ciglia lunghissime, arcuate. Dai suoi abiti promanava un sentore di tabacco e muschio. Xeniuska, durante le interrogazioni, se ne stordiva. I capelli ondulati, l'anello d'oro al mignolo, la voce calda quando leggeva i poeti. Bastò che lui le desse un piccolo tocco sulla guancia un giorno in un corridoio della scuola e Xeniuska si ritrovò innamorata perdutamente. Sua madre capì in fretta i motivi della remissività improvvisa, dei rossori, dei tempi lunghi spesi a interrogare lo specchio. Il giorno che decise di accompagnarla accampò una scusa. Altre ne inventò per restare con lei di fronte alla scuola in attesa. Il professore apparve all'angolo della strada, scarpe lustre, passo marziale. Xeniuska si illuminò tutta. Xenia si fece incontro all'uomo, si presentò. Disturbata dall'intrusione, sua figlia rimase in disparte, accigliata. Xenia chiese dei progressi, poi avviò un discorso di letteratura. E subito l'uomo apparve in difficoltà. Fuorché i pochi autori del programma scolastico, ben poco sapeva o aveva letto. Xeniuska odiò sua madre per la superiorità che dimostrava, senza sforzo né ostentazione, ma netta. La campanella squillò, era il momento di entrare. Sollevato, lui si congedò da Xenia con un baciamano assai goffo, una smagliatura di fascino che Xeniuska non aveva avuto occasione prima di notare. La bocca di Xenia si incurvò in un sorriso affabile, Sua figlia sapeva quanta condiscendenza vi fosse contenuta. In classe, nell'ora di italiano, le labbra di lui si rivelarono a Xeniuska volgari, il gestire delle mani inutilmente accentuato. Si sentì d'un tratto leggera e svuotata. Capì di non amarlo più, ma ritenne di aver fatto una scoperta tutta sua, in cui la madre era entrata soltanto all'ultimo e per caso. Eugenio Colorni, il più piccolo fra i cugini, sarà un eroe. Ma quando si racconta e di sé dice Pierino, ancora non sa o non è certo, benché l'insistere sui propri difetti e sulle debolezze sia già civetteria consapevole. Anche i cugini li racconta con altri nomi. Enzo diventa Ennio e così via, tranne Mimmo che è Emilio, per spirito di contraddizione rispetto agli usi compatti della famiglia, o perché il nome vero, che nessuno utilizza mai malgrado l'interessato ci tenga molto, basta da solo a camuffarlo, o perché Eugenio, quando scrive, non può che pensarlo già scomparso. Pierino ha 12 anni, Emilio, il minore dei cugini, 14. La sua mania attuale è la chimica, non fa che parlare di atomi e molecole, di acidi e di sali. Pierino si fa istruire da lui senza passione, per ubbidire alla mamma che l'ha voluto. Un giorno i due ragazzi si azzuffano per un motivo qualsiasi. Pierino litiga in modo cauto e circospetto per paura di venire scoperto dai grandi. L'altro non ha paura di nessuno. Urla, strepita, gli rinfaccia clamorosamente il suo fare equivoco. A letto senza cena, ambedue. Dormono nella medesima camera. Emilio è tranquillo, come se nulla fosse accaduto. Pierino è pieno di vergogna e di rancore. Si sente ancora debitore di uno sfregio. Alza circospetto la mano e dà uno strattone alla coperta del cugino. Il danno è minimo, quasi impercettibile, ma la reazione è fulminea. Coperta, lenzuola, guanciale, materasso di Pierino vengono buttati per aria da una furia vendicatrice. Nuova baruffa, nuovo intervento dei genitori. Emilio viene punito perché la sua mancanza è più appariscente, ma i due sanno chi è il primo colpevole. Emilio sopporta stoicamente la pena, seppellendo il cugino sotto il suo disprezzo. I due ragazzi sono a letto, svegli. Pierino è tormentato da quanto è avvenuto. Il rancore si va placando, ma egli non ha la forza di prolungare lo stato di guerra che l'altro sarebbe capace di prolungare per settimane. È così piacevole essere in pace, giocare, ridere insieme. Già, lui avrà sempre la peggio, non solo materialmente, ma moralmente. Egli sente di essere costituzionalmente e organicamente nel torto. E con costoro essere nel torto è una tortura. Meglio riconoscerlo, questione di un momento. Butta giù la pillola, una frase. Emilio, dormi? No. Facciamo la pace. Detto. Dopo le prime parole, le altre non costano più nulla. Emilio rifiuta, ma è calmo, diplomatico. Pierino diventa patetico. Implora, finge di piangere. L'altro sta pensando alle condizioni che dovrà porre. Ha una regola di onore e di moralità alla quale non può derogare. Sembra che stia consultando il suo codice privato. Ecco finalmente la condizione. Pierino dovrà stendersi a terra e lasciare che Emilio gli prema il collo col piede. È troppo. La condizione è inaccettabile, ma ormai il ghiaccio è rotto. I due discorrono pacatamente da buoni amici. Pierino scongiura che gli venga risparmiata la pena obbrobriosa. Emilio gli spiega il vantaggio morale che gli deriverebbe dal subirla. Umiliarsi è da forti. È degno della sua stima e della sua amicizia solo chi sia tanto padrone di sé da subire tale onta senza batter ciglio. Messa sotto questa luce, la cosa diviene più accettabile. Dopo lunghe discussioni e patteggiamenti, dovuti anche al fatto che i piedi di Emilio sono piuttosto sudici, la cerimonia viene eseguita. Emilio, entusiasta, abbraccia il cugino. Poi non vuole essere meno di lui e pretende che Pierino gli calchi a sua volta il tallone sulla cervice, e gli atti di reciproca umiliazione non finiscono più. Pierino è felice e vergognato e sbalordito. Il cugino maggiore lo ha ammirato. I suoi cugini conoscono le lingue, ma non si curano affatto della pronunzia. Pierino se ne irrita e vorrebbe correggerli, ma gli viene subito chiusa la bocca. Queste sono vuote esteriorità. La conoscenza delle lingue è uno strumento di cultura, non un mezzo per far bella figura nei salotti. È vero. Quei dannati hanno una maniera irresistibile di scavalcare le quisquiglie per filar dritti all'essenziale. Ma è duro questo per chi apprezza le quisquiglie e si trova a suo agio sul terreno degli imponderabili. Se ti provi in una discussione a difendere la sfumatura contro l'essenziale, avrai sempre torto. Pierino non ci si prova, e nell'udirli espettorare ad altissima voce i versi di Shakespeare con accento romanesco, li sente forti e sé debole, e sente che loro hanno conquistato la lingua, mentre lui se ne è lasciato conquistare. Il maggiore dei cugini, per incarico della mamma, gli ha parlato un giorno di cose sessuali. Lo ha messo in guardia contro vizi e pericoli. Lo ha iniziato ad una sua morale fra stoica e quacquera, la necessità di moralizzare l'atto sessuale, di non compierlo mai come sfogo di istinti, ma solo sub specie eternitatis, con la donna che si amerà sempre per la procreazione dei figli. Con Maglio Mimmo era il primo, e sciolto dall'obbligo del confronto che con Enzo non aveva tregua. L'amico a chiare lettere gli riconosceva il primato, e a partire da questo c'era poi fra di loro uno scambio reale. La questione meridionale fu una scoperta di Manlio per frequentazioni familiari e letture. Mimmo se ne innamorò subito e la fece propria, con quel bisogno che aveva di obiettivi assoluti e titanici, con Enzo solo qualche accenno vago. Aveva visto la terra, gli animali e le colture soltanto nelle gite, come panorama. Quando cominciarono a indagarne la realtà, fame e pozzi neri, siccità e grandine, con Maglio l'amicizia divenne fraterna. Per l'ultimo dell'anno Xenia ebbe voglia di qualcosa di nuovo e uscì per comperarlo. Guardò le vetrine, entrò nelle botteghe e tutto era troppo caro per lei e niente abbastanza di suo gusto. Guardava una stoffa e pensava agli accessori di cui disponeva. I limiti imposti dalle sue scarse risorse non le erano mai apparsi così ristretti e pesanti. Alla fine di molti giri, rinunciando a sentirsi giovane, comperò per sé un libro e un merletto d'occasione per sua figlia, che rinfrescasse quel certo abito azzurro di cui lei oramai poteva a ogni buon conto fare a meno. A casa stirò l'abito per Xeniuska e vi applicò la trina, immaginandola accanto a sé elegante la sera, quando per la prima volta avrebbe raccolto i capelli come una grande e come gli adulti sarebbe rimasta alzata fino a tardi. Per brindare in casa di Xenia arrivarono in molti: profughi russi, studenti ebrei di ogni parte d'Europa e altra gente strana e senza radici, ciascuno con un cibo o una bevanda, per non appesantire l'ospite al di là del possibile. Malgrado la novità e il riconoscimento, malgrado l'allegria e le leccornie, Xeniuska girovagò da un gruppo all'altro annoiandosi a morte, e prima di mezzanotte sparì da tutti per dormire. Xenia cercò di non accorgersi dell'assenza, risoluta a prendersi un po' di allegria. Fra i molti ospiti di quella sera, uno fece alla padrona di casa una corte serrata, benché ossequiente nei limiti del buon gusto. Xenia declinò con decisione ogni avance, ma ridendone. Gliene restò un caldo al cuore che le fece accogliere l'anno con un sorriso chiaro e una piccola fiducia nuova. All'inizio non ebbero preoccupazioni, anzi interesse e perfino simpatie, ma capirono in fretta ed Enzo, per un giornaletto distribuito a scuola, si guadagnò insieme a Guido Calogero botte e olio di ricino. Enrico, a Roma e a Napoli, intraprese i primi contatti già rischiosi. Ugo La Malfa ed Eugenio Reale, Edoardo Volterra, Piero Sraffa, il giovane Amendola. Prima la confusione volenterosa delle associazioni universitarie, poi via via il precisarsi dei propositi. L'imperativo era non mollare, non arrendersi alla volgarità piatta del fascismo. Contenuti dalla politica e problemi personali, i tre fratelli uniti in un obiettivo che appariva comune, le ansie e i desideri diventati una vena invisibile, ma non quella spinta ineluttabile ad emergere. Enrico forse avrebbe preferito vivere. Di nuovo in giro per l'Europa cercava scampo alle inquietudini, oppure, chiuso nelle stanze da scapolo che aveva affittato a Napoli, si rifugiava nella ricerca, cercando di trasferire alla sua vita incerta la precisione rassicurante matematica della scienza. 15 maggio 1923. Tu sai che io ho sempre cercato di vivere principalmente col cervello e di rendere razionale, logico, coerente ad un sistema prestabilito ogni atto e ogni mio pensiero. So bene di essere restato assai lontano da questo programma massimo, ma ciò non toglie che io abbia sempre cercato e cerchi di applicarlo, anche se questo mio disperato bisogno di unità e di armonia mi sia costato qualche sacrificio non veniale. Enzo aveva saltato una classe di liceo, dunque Mimmo ne saltò due. Piccolo di statura, minuto, quasi imberbe, quando sedette da privatista al banco degli esaminandi, i professori non lo presero granché sul serio. Svagati, si scambiarono occhiate e sorrisi di sufficienza finché il presidente della commissione non fece passare loro sotto gli occhi i risultati degli iscritti. Se l'erano immaginato diverso tutti. Durante la correzione dei compiti, l'insegnante di latino si era figurato di trovarsi di fronte un viso scavato dagli studi severi. Quello di matematica e fisica si era infastidito per la velocità con cui le espressioni erano state svolte, ma poi non era riuscito a trovarvi errori, benché l'allievo avesse utilizzato percorsi abbreviati, semplificati al punto tale da non potersi dire ortodossi. Ma chi non poté trattenersi, e difatti prese subito la parola, fu il professore di italiano, che si piccava ad essere gran conoscitore di D'Annunzio e che proprio sul vate intendeva interrogarlo per proseguire il discorso che l'allievo aveva intrapreso con il tema. «Piove sulle tamerici sparse», lesse il docente dal componimento. Gli angoli della bocca di Mimmo si piegarono appena in un sorriso, ma subito lo cancellò, prendendo a disquisire invece sulla lingua, le fonti, la macchia mediterranea a cui il poeta si era ispirato. In quel profluvio di parole, il professore interponeva ogni tanto a fatica una domanda, non rassegnandosi a quell'allievo che voleva dimostrare di saperne più di lui. Gli altri membri della commissione ascoltavano. Mimmo sotto i loro sguardi si sentiva diventare più alto e gli occhi gli brillavano. Su richiesta dell'insegnante di filosofia, declamò tutta intera l'ode e alla fine si ebbe un applauso. Il professore d'italiano, il piccolo uomo che aveva silenziosamente affidato a D'Annunzio il compito di vendicargli le mille miserie della vita, non ebbe il coraggio di porre l'ultima domanda, quella che gli scottava le labbra. Dove mai avesse scovato l'allievo quella lode ignota a lui, che del vate conosceva a menadito e collezionava ogni riga scritta, ogni verso vergato sia pure per pubblicità o giornalucolo, ogni pensiero minimamente elaborato su carta. I colleghi lo guardavano, in attesa. Il piccolo uomo fece un gesto con la mano per dire che aveva finito. Scrisse il suo voto sul registro. 10. Poi con il componimento in mano si allontanò. Non visto, copiò i versi del Vate dalla scrittura spigolosa di Mimmo, che per sfottere Enzo, anche lui fino a poco tempo prima infatuato di D'Annunzio, quei versi li aveva inventati per burla pochi giorni prima. Pensarono a una festa in terrazza per la licenza di Mimmo, perché i tempi erano sgradevoli, se si voleva stare con i propri amici era meglio in casa che nei locali pubblici, ingombri di camicie nere e volgarità. Mimmo si radeva con cura la barba appena visibile, con la faccia piena di sapone si guardava nello specchio e faceva ogni sforzo per riconoscersi adulto. Accanto a lui la giacca nuova appesa alla gruccia, la camicia inamidata pronta per la spilla da colletto, regalata per l'occasione da Ermelinda e Angelo. Suonarono alla porta, qualcuno andò ad aprire. Mimmo sentì delle voci, si preoccupò che gli ospiti stessero già arrivando. Ma era troppo presto, controllò l'orologio e riprese a radersi con calma. Sentì i passi di Lello nel corridoio, il tono concitato e sempre lamentoso di Finimola, la voce piacevole e controllata di suo padre e quelle dei suoi interlocutori, due o tre, pesanti di inflessioni dialettali. Si asciugò senza fretta il viso e si affacciò sul corridoio, incuriosito. Dal tono di Lello trapelava l'impazienza. Per chi come Mimmo conosceva la sua calma proverbiale, l'irritazione traspariva dalle parole pronunciate con lentezza eccessiva, ben staccate le une dalle altre. «Collodi Finimola, si chiama così da quando è nata», diceva. «Non pretenderete mica di farle cambiar nome a quest'età?» Anche l'interlocutore appariva cortese e insieme minaccioso, per il tono sprezzante che pervadeva ogni sillaba. «Ma che differenza volete che le faccia?» Comunque la chiamiate, serva è e serva resta. Fate così. Chiamatela Finisia e nessuno ci avrà più a che ridire. Il suo nome è Finimola, ribadì Lello. E si chiamerà Finisia, troncò l'interlocutore, con un'impazienza cattiva della voce. Così nessuno, sentendovi quando la chiamate, potrà più pensare malignamente, si intende, ad un'ingiuria, ad una posizione della vostra famiglia e vostra personale ostile in qualche modo al nostro duce, al nostro re, al mondo nuovo che tutti insieme sotto questi grandi auspici stiamo edificando. Tutti insieme, n'è vero, eccellenza? N'è vero, eccellenza? Incalzò un altro. La vostra lealtà alla causa non è in discussione, per carità, e i vostri meriti sono a tutti ben noti. Proprio per questo vi chiediamo il piccolo sacrificio di un'abitudine. Mai farsi imprigionare dalle abitudini. Non siete d'accordo anche voi, eccellenza? Lello strinse le labbra, abbassò il capo, li congedò.